Ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La parete di Marlene Haushofer. Traduzione di Ingrid Arbeck. Dovevo aver dormito a lungo, perché fui svegliata dal guaire di Lince, con la sensazione di essere completamente guarita, anche se molto debole. Mi alzai e, sebbene ancora un po' barcollante, ripresi il mio solito lavoro. Le cornacchie calarono gracchiando nella radura e regolai l'orologio sulle 9. Dall'ora segna il tempo delle cornacchie. Ignoravo quanto fosse durata la mia malattia e, dopo molto riflettere, cancellai una settimana dal calendario. Da quel giorno anche il calendario non è più attendibile. La settimana che seguì fu molto dura e faticosa. Non feci una sola mossa superflua, ciò malgrado continuavo a sentirmi molto stanca. Per fortuna disponevo ancora di mezzo capriolo congelato e non dovetti allontanarmi molto da casa. Mangiai carne, mele e patate e feci tutto il possibile per riprendere le forze. Fui colta da un'irresistibile voglia di arance e il pensiero che non ne avrei più mangiata una mi riempì gli occhi di lacrime. Avevo le labbra screpolate e con quel freddo non riuscivo a guarire. Lince continuava a trattarmi come una bambina inerme e mentre dormivo ogni tanto la paura lo induceva a svegliarmi. La gatta non abbandonò il mio letto e seguitò a trattarmi con molta tenerezza. Non so se fosse devozione o solo il desiderio di essere confortata. Dopotutto aveva perduto i suoi piccoli ed era stata gravemente ammalata. Molto lentamente tornammo tutti alla nostra vita abituale. Solo l'ombra minuta di tigre offuscava la gioia per la mia guarigione. Se non fosse fuggito e la gatta non si fosse ammalata, dubito che la malattia sarebbe riuscita a sopraffarmi. Ero tornata a casa fradicia più di una volta. Il dolore mi aveva indebolito e resa vulnerabile, minando la mia forza di resistenza. Il soggiorno sull'Alpe mi aveva leggermente trasformata e la malattia prolungò questa trasformazione. Iniziai poco a poco a staccarmi dal mio passato per inserirmi in un ordine nuovo. A metà febbraio mi ero ristabilita al punto da poter riprendere le passeggiate nel bosco con Lince e andare a prendere il fieno. Ero molto prudente, badando di non affaticarmi troppo. Il tempo si mantenne moderatamente freddo e la selvaggina sembrava cavarsela piuttosto bene. Ancora non avevo trovato un solo capo morto di freddo o di fame. Era un piacere avere riacquistato la salute, respirare l'aria pura che sapeva di neve e sentirmi ancora viva. Bevevo molto latte, tormentata come mai prima da una sete continua. Accudendoli con più affetto del solito, cercai di risarcire Bella e Toro della paura e dei patimenti sofferti a causa della mia malattia. Quei due, comunque, sembravano già aver scordato tutto da un pezzo. Gli strigliai il mantello e promisi loro una lunga estate sull'Alpe e in modo sconsiderato sbriciolai qualche pezzetto della mia mattonella di sale pastorizio, dandoglielo come premio. E loro strofinavano le froge contro il mio cappotto, leccandomi le mani con lingue ruvide e bagnate. Oggi, ripensando a quel periodo, lo vedo ancora offuscato dalla scomparsa di Tigre. Quasi ero contenta che i gattini fossero nati morti, risparmiandomi un nuovo affetto e nuove preoccupazioni. A fine febbraio Bella volle Toro con veemenza e io tornai a cedere e rischiai un altro tentativo. Risultò in seguito che avevo sperato invano. Decisi allora di attendere definitivamente fino a maggio. Mi sentivo troppo insicura per quanto riguardava quel problema, che finì col diventare un fastidio perenne. Toro seguitava a crescere e non pareva patire il freddo. Il manto gli si era coperto di un pelo folto un po' irsuto. Il suo grosso corpo emanava sempre un alone tiepido. Forse avrebbe potuto svernare anche all'aperto. Naturalmente continuavo a giudicare gli animali secondo il mio proprio corpo indifeso. Ma anche gli animali si comportavano in modo molto diverso. Lince sopportava bene sia il caldo che il freddo. La gatta, con il suo pelo assai più lungo, odiava il freddo. E signor Cao Cao, pur sempre un gatto, viveva nel gelo e nella neve della foresta invernale. Io sono freddolosa. Eppure non avrei sopportato di stare giorni interi al calore nella nicchia della stufa come il lince. E ogni qualvolta vedevo una trota immobile nella pozza, i brividi mi scendevano per la schiena e la compiangevo. Continuo a compiangerle. Proprio non riesco a credere che laggiù, tra i sassi coperti di muschio, si possa star bene. La mia immaginazione è assai limitata, non penetra nella carne bianca liscia degli animali a sangue freddo. E quale sensazione di estraneità mi provocano gli insetti? Li osservo con stupore, ma sono contenta che siano tanto minuscoli. Una formica grande come un uomo per me è un incubo. Credo di riuscire a fare un'eccezione per i calabroni solo perché il loro pelo vellutato mi suscita l'illusione di un piccolissimo mammifero. Talvolta desidererei che questa estraneità si trasformasse in dimestichezza, ma ne sono ben lontana. Estraneo e cattivo per me continuano a essere la stessa cosa. E vedo che neppure gli animali ne vanno esenti. Durante questo autunno è apparsa una cornacchia bianca. Vola sempre a una certa distanza dalle altre e si posa solo su un albero che le sue compagne evitano. Non riesco a capire perché le altre la detestino. A me sembra un uccello particolarmente bello. Eppure alle sue consorelle risulta ripugnante. La vedo tutta sola, appollaiata sul suo abete, che fissa qualcosa al di là del prato. Un povero mostro che non dovrebbe esistere. Una cornacchia bianca. Resta sull'abete fin quando il grande stormo è volato via e allora le porto un po' di cibo. È talmente docile che mi permette di avvicinarmi. Qualche volta salta per terra appena mi vede arrivare. Non può sapere perché è stata ripudiata. Non conosce vita diversa da quella. Sarà sempre un animale ripudiato e solitario, al punto da temere meno l'uomo dei suoi fratelli corvini. Forse la ripugnanza che provoca è tale che non vogliono neppure beccarla a morte. Ogni giorno aspetto la cornacchia bianca e la chiamo, e lei mi osserva attentamente con i suoi occhi rossicci. Posso far ben poco per lei. Forse i miei rifiuti prolungano una vita che non andrebbe prolungata, eppure io voglio che la cornacchia bianca viva. E ogni tanto sogno che nel bosco ne esista un'altra perché possano infine incontrarsi. Non lo credo, ma lo desidero ardentemente. Febbraio, a causa della mia malattia, mi sembrò brevissimo. All'inizio di marzo si fece improvvisamente caldo e la neve lungo i pendii si sciolse. Temevo che la gatta partisse per qualche avventura, ma non mostrava alcun segno di desiderio amoroso. La malattia l'aveva duramente colpita. Spesso giocava come un piccolo gattino per poi lasciarsi cadere estenuata e sonnacchiosa. Era amabile e paziente e a Lince piaceva starle intorno. Capitava perfino che dormissero l'uno accanto all'altra nella nicchia della stufa. Questa trasformazione mi inquietava un poco. Sembrava un segno che la gatta non si sentiva ancora completamente guarita. Anch'io ero ancora piuttosto debole e questo era pericoloso. Dovevo assolutamente recuperare le forze prima dei lavori di primavera. Nel fianco sinistro conservavo ancora un leggero dolore. Non riuscivo a respirare profondamente e quando andavo a prendere il fieno o spaccavo la legna, il fiato corto mi dava fastidio. Il dolore non era acuto, solo molesto, come un perpetuo ammonimento. Continuo a sentirlo ancora oggi, prima che cambi il tempo, ma dall'estate riesco di nuovo a respirare a fondo. Temo che la malattia mi abbia leggermente indebolito il cuore. D'altronde, non mi posso permettere troppi riguardi. Tutto il mese di marzo trascorse in un'atmosfera logorante, che aveva qualcosa di pericoloso. Avrei dovuto riguardarmi, eppure non potevo fare a meno di espormi. Il sole mi invogliava a sedere sulla panca, ma mi fiaccava troppo e dovetti rinunciarvi. Pensare costantemente alla propria salute è noioso e il più delle volte scordavo completamente di farlo. La terra non si era ancora scaldata e appena calava il sole, l'aria tornava invernale, pungente e fredda. L'erba sotto la neve aveva resistito tanto bene che in certi punti era rimasta verde. La selvaggina riusciva a trovare sufficiente foraggio nel prato vicino al bosco. Tutto marzo lo dedicai al lavoro della legna. Avendo poco fiato, lavoravo lentamente. Si trattava comunque di un lavoro di importanza vitale e andava portato a termine. Malgrado ciò, mi muovevo come in sogno, quasi camminassi sulla bambagia e non sul sodo terreno del bosco. Non mi preoccupavo troppo e continuavo a oscillare tra un'allegria febbrile e una superficiale tristezza. Capivo da sola di comportarmi come la gatta, regredita a una forma di vita infantile a causa della malattia. Spesso, prima di addormentarmi, mi sembrava di stare nel mio letto di noce, accanto alla camera dei miei genitori, ad ascoltare il mormorio monotono che mi giungeva attraverso la parete e mi cullava nel sonno. Continuavo a ripetermi che dovevo finalmente tornare a essere forte e adulta, ma in verità desideravo solo ritrovare il calore e il silenzio della mia camera da bambina. Oppure, ancora prima, il calore e il silenzio dal quale ero stata strappata e tratta alla luce. Avevo una vaga coscienza del pericolo. Dopo tanti anni, però, la tentazione di lasciarmi sprofondare era troppo forte per poterle resistere. Ciò rendeva infelice Lince. Mi incitava ad accompagnarlo nel bosco, a intraprendere questo o quello e a scrollarmi di dosso la sonnolenza. Il mio piccolo io infantile si adirò molto con Lince e non ne volle sapere. E così mi abbandonai all'umida luminosità di quei giorni di marzo che aveva allettato i fiori facendoli spuntare in anticipo dalla terra. L'anemone epatica, le primule, i ranuncoli e le cordiali erano tutti incantevoli e creati per il mio piacere. Chissà per quanto tempo avrei continuato a lasciarmi vivere così se non fosse intervenuto Lince. Aveva preso l'abitudine di intraprendere delle piccole escursioni per proprio conto e un mezzogiorno tornò guaiolando a mostrarmi la zampa anteriore schiacciata e sanguinante. Di colpo mi ritrasformai in una donna adulta. Il cane aveva l'aria di essere finito sotto una pietra pesante. Lavai la zampa e, non essendo in grado di stabilire se fosse fratturata, la immobilizzai con delle asticelle di legno, fasciandola con un bendaggio medicato. Lince, raggiante per l'interesse che gli dimostravo, mi lasciò fare docilmente. Trascorse i due giorni seguenti a sonnecchiare nella nicchia della stufa. Mi rimproverai, per la mia noncuranza il cane si era cacciato in quella situazione. Non mi ero occupata di lui e l'avevo semplicemente abbandonato. Esaminai nuovamente la zampa e constatai che non era rotta. Lince prese a leccarsi la pomata e io rinunciai a rinnovargli la fasciatura. Il cane probabilmente sapeva da sé cosa gli giovasse e desiderava potersi leccare la zampa. Una settimana dopo riprese a camminare, dapprima zoppicando e poi lesto come prima. La zampa gli rimase un poco deforme e più larga di quanto fosse prima dell'incidente. All'improvviso, le ultime settimane mi sembrarono assolutamente irreali. Avevo ripreso a pensare al mio lavoro e facevo progetti per il trasferimento sull'Alpe. Ed ecco che tornò l'inverno. La neve seppellì gli alberi nel prato accanto al ruscello e i miei sogni di un sonno da bambina protetta. Nel mio mondo non esisteva sicurezza, solo pericoli da ogni parte e duro lavoro. D'altronde non me ne lagnavo. Il pensiero di come mi fossi ridotta negli ultimi tempi mi disgustava. La legna della catasta più vicina era stata bruciata e mi accinsi a trascinare verso casa i ceppi ammassati più lontano, facendoli slittare sulla neve. La neve era solida e liscia e il lavoro incominciò a divertirmi. Presto mi ritrovai le mani screpolate e piene di resina e di piccole schegge di legno. La sega si era leggermente spuntata e non osavo affilarla per timore di toglierle con la mia inettitudine quel poco filo rimasto. Così tagliare la legna divenne un lavoro pesante e ogni sera andavo a letto stremata. Ma finalmente mi era tornata la fame e riuscivo a mangiare con appetito perfino la carne. Presto mi accorsi di stare riacquistando le forze e la destrezza. Lince mi seguiva ovunque e pareva non accorgersi più della zampa. Ormai eravamo tre invalidi, degli invalidi arzilli, perché anche la gatta s'era infine ripresa, abbandonando quella dolcezza innaturale. Toro diventava sempre più grande e imponente. Il garage tanto lo riempiva, pareva una casa di bambola. Aspettavo con gioia il giorno in cui avrebbe rimesso gli zoccoli sui tappeti erbosi dell'Alpe. Solo il pensiero della gatta continuava a tormentarmi tutte le sere, quando pensavo al trasferimento. Portarla con noi non aveva senso. Sarebbe comunque tornata indietro e lasciandola a casa le risparmiavo perlomeno le insidie del lungo cammino di ritorno. Col passare dei giorni la vedevo riconvertirsi sempre più a quel suo vecchio carattere scontroso e potevo solo sperare che fosse capace di affrontare la vita estiva nel bosco. Comunque, se fosse stata ancora malata, l'avrei portata con me. A causa della sua disgrazia, mi ero talmente affezionata alla gatta che l'imminente separazione toglieva il ritorno sull'Alpe ogni senso di gioia. Del resto, io avrei decisamente preferito rimanere nello chalet della riserva. L'incomprensibile avversione per l'Alpe, incomprensibile dopo un'estate tanto bella, non si era ancora dissipata del tutto. Forse la colpa era solo dell'inerzia che mi induceva a scansare le fatiche eccessive. Forse avrei dovuto prestare ascolto ai miei desideri segreti. D'altro canto, mi pareva doveroso non privare Bella e Toro di una nuova estate sull'Alpe. L'umido e il freddo durarono tutto aprile e nella terza parte del mese il tempo fu tempestoso a tal punto da costringermi in casa. Quel riposo forzato non mi piacque. Ero piena di fervore per il mio lavoro e invece dovevo accontentarmi di rammendare i miei vestiti estivi. Avevo le mani talmente screpolate che il filo seguitava a impigliarsi. L'ago mi scivolava tra le dita, costringendomi a cercarlo per infilarlo di nuovo. Per il momento non occorreva mi preoccupassi per il vestiario, in quanto a scarpe, per contro, ero piuttosto malmessa. Possedevo un paio di solide scarpe da montagna con suole di gomma a carro armato, indistruttibili. Inoltre avevo gli scarponi di Luise che mi calzavano un po' grandi, anche se all'occorrenza avrei potuto indossarli. Le scarpe basse con le quali ero arrivata erano ridotte in pessime condizioni. La fodera era lacerata, punte e tacchi consumati. Difficilmente avrebbero retto un'altra estate. Nel frattempo mi sono cucita un paio di mocassini servendomi di una pelle di capriolo seccata. Non sono particolarmente belli, ma molto gradevoli da calzare. Purtroppo non sono molto resistenti. A quel tempo, comunque, non avevo ancora pensato a questa alternativa. Stavo male anche a calze e calzerotti. Da un pezzo avevo esaurito la mia lana da rammendo e dovevo arrangiarmi con dei fili di lana colorata estraendoli da una coperta. Veri e propri vestiti non ne indossavo più da molto tempo. Non avevo tardato a scoprire gli indumenti più pratici per il mio genere di vita: le camicie di Ugo, alle quali avevo scorciato le maniche, i miei vecchi pantaloni di velluto a coste, un giubbotto di Loden, un gilet di lana e d'inverno le lunghe brache di cuoio di Ugo che mi ballavano addosso. D'estate indossavo calzoni corti, ricavati da un paio di eleganti pantaloni di broccato che Luise soleva portare la sera. Anche la mia vestaglia si trovava ancora in buono stato, del resto la mettevo solo in casa. Tutto sommato, un guardaroba poco elegante ma adatto allo scopo. Facevo poco caso alla mia apparenza. Per le mie bestie era indifferente in quale involucro mi presentassi. Non mi amavano certo per il mio aspetto, probabilmente non possedevano alcun senso estetico. Del resto, non credo che un essere umano possa apparire bello ai loro occhi. E così trascorsi alcuni giorni dedicandomi ai noiosi lavori di rammendo. Il tempo era talmente freddo e ventoso che neppure Lince mostrava il desiderio di uscire per una passeggiata. Sedeva nella nicchia della stufa come ad assorbirne il calore. La gatta stava allungata sopra i miei vestiti sul tavolo. Le piaceva molto sdraiarsi sopra i vestiti. Lo avevano sempre fatto anche Perla e Tigre. Se le dicevo qualcosa iniziava a fare le fusa. Talvolta bastava solo il mio sguardo. Il vento infuriava attorno alla casa e noi stavamo al caldo, in un'atmosfera confortevole. Quando il silenzio si faceva troppo grande e opprimente, pronunciavo qualche parola e la gatta rispondeva con un gorgogliare sommesso. Ogni tanto cantavo e la gatta non aveva nulla da obiettare. Avrei potuto essere contenta se fossi riuscita a escludere completamente il pensiero del passato, ma questo mi riusciva solo molto di rado. Il 26 di aprile la mia sveglia si arrestò. Ero intenta a modificare una camicia quando cessò il ticchettio. Da principio non me ne accorsi nemmeno, o meglio, mi accorsi solo di qualcosa di diverso da prima. Solo quando la gatta drizzò le orecchie e voltò la testa in direzione del letto, presi anch'io coscienza del nuovo silenzio. La sveglia era morta. Era la sveglia trovata nella capanna più a monte, durante la mia gita nella valle contigua. La presi in mano, la scossi e la sveglia fece un'ultima volta tic-tac, poi fu decisamente la fine. La svitai con le forbici. Aveva l'aria di godere di ottima salute. Non riuscii a scoprire un guasto nell'ingranaggio, nulla di rotto. Eppure si rifiutava di ticchettare. Compresi subito che non sarei mai riuscita a farla funzionare. La lasciai dunque in pace e riavvitai il coperchio. Erano le 3 del pomeriggio, ora di cornacchia, ed è quella che ha continuato a segnare da allora. Non so perché l'ho conservata. Si trova ancora accanto al mio letto e segna le 3. Ormai possedevo solo l'orologio da polso che avevo sempre conservato nel cassetto del tavolo. Lavorando l'avrei solo rotto. Oggi non posseggo più orologi. Quello da polso lo persi tornando dall'Alpe. Forse è stato calcato in terra dagli zoccoli di Bella. A quel tempo mi sembrò non ne valesse più la pena e non tornai indietro a cercarlo. Del resto è probabile che non l'avrei comunque trovato. Era un orologio minuscolo, un giocattolo d'oro regalatomi molti anni prima da mio marito. A lui era sempre piaciuto vedermi con delle cose graziose e minute. Io avrei preferito di gran lunga un grosso orologio pratico, eppure oggi sono contenta di aver simulato a suo tempo gioia per quel regalo. Ebbene, è dunque scomparso anche il piccolo orologio da polso. Da tempo l'ora che segnava non era più esatta, nemmeno rispetto all'ora delle cornacchie. Questi piccoli orologi non sono mai precisi. In un primo momento la sveglia mi mancò. Per qualche sera tardai molto a prendere sonno in quel nuovo silenzio angoscioso. Di notte mi svegliavo col ticchettio familiare nelle orecchie, ma a destarmi era solo il battito del mio cuore. La gatta fu la prima ad afferrare la morte della sveglia. L'ince non la notò nemmeno. L'arrestarsi di un orologio, evidentemente, non era un segno che annunciava pericolo. Pericolo oppure selvaggina, e perciò non se ne accorse neppure. Era totalmente insensibile a tutti i rumori consueti, per quanto acuti o fragorosi potessero essere. Ma se durante una battuta un ramo cricchiava impercettibilmente, si arrestava interdetto a fiutare. Adesso non ho più nessuno che sappia distinguere i rumori innocui da quelli minacciosi. Devo stare molto attenta. La gatta, è vero, tende l'orecchio giorno e notte, ma non per me. Prima che il tempo migliorasse veramente, venne maggio. Erano trascorsi 2 anni nel bosco e notai che non mi accadeva quasi più di pensare che avrebbero finito col trovarmi. Passai il primo maggio a vangare il campo delle patate e a portarvi il concime. Lo stesso feci il 2 maggio. Durante la notte arrivò l'estate e accanto ai fiori primaverili appassiti e congelati, tutto si protese simultaneamente verso la luce. Ripresi a spaccare la legna e ne accatastai una nuova scorta sotto la veranda. L'inverno non doveva cogliermi impreparata. Il 10 maggio il tempo si era mantenuto caldo e estivo. Misi in terra le patate e vidi con soddisfazione che questa volta me ne erano rimaste di più. Inoltre ero riuscita a ingrandire il campo di un altro pezzo. Piantai anche i fagioli e con ciò i principali lavori di primavera si erano conclusi. Perciò decisi di incamminarmi presto verso l'Alpe. Il fieno iniziava già a scarseggiare. Feci dunque uscire Bella e Toro e li condussi al pascolo. Toro per tutto l'inverno non aveva fatto che mangiare e per di più ogni tanto aveva anche bevuto il buon latte scremato. Tornai al fienile a prendere un carico di fieno in modo da avere subito a portata di mano una piccola scorta al mio rientro in autunno. Gli alberi da frutto erano in piena fioritura e in una settimana l'erba era cresciuta a vista d'occhio e al di là della parete una selva di ortiche aveva già circondato la casetta. Quell'anno la fioritura degli alberi era in ritardo, il che lasciava perlomeno sperare che venissero risparmiati dalla brina. I giorni seguenti furono di nuovo freddi e piovosi, sebbene il gelo di maggio si rivelasse piuttosto mite, e il 17 maggio il tempo si ristabilì al punto che diede inizio al nostro trasferimento. Questa volta, poiché facevo sempre fatica a respirare profondamente, mi sembrò ancora più faticoso dell'anno precedente, perché arrancavo ansimando sotto i carichi pesanti. L'erba dell'Alpe era già verde e folta, e solo nelle zone d'ombra sotto gli alberi restava ancora qualche traccia di neve. La gatta osservava imbronciata i miei preparativi. Se tentavo di accarezzarla, mi fissava con occhi gelidi senza fare le fusa. Aveva capito subito e potevo comprendere il suo giustificato risentimento. Mi sentivo molto colpevole sotto il suo sguardo. Le ultime notti non dormì più nel mio letto, bensì sulla dura panca di legno. La mattina della nostra partenza non tornò neppure a casa. Mi guastò la giornata fin dall'inizio. Oggi potrei arrivare a pensare che la gatta volesse avvisarmi, ma sarebbe una menzogna. Voleva unicamente che non l'abbandonassi. E in questo non c'era proprio nulla di misterioso. Nessuno vuole essere abbandonato, neppure una vecchia gatta. Manuela Mandracchia ha letto La parete di Marlene Haushofer, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Ornella Bellucci e Filippo Travaglio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.